voglio uccidere. L'animo corrode, se solitario ode, il germe d'uomo di violenza, resistenza d'anima, che fina svolge telaio in seta, io ove vi leggo, leggero il pesante ammonimento. Uccide, uccide, uccidi, uccidi, uccidi, uccidi. E poi decadi, animo mio, anima tua in me, poiché nemico dentro ho come lamento, firmamento e rosa dentro, macchia nera di sgomento, rosario, rosario, rosario, rompiti il lamento, placa in me, decupito a cuor mio, amore infranto, amore infranto. In silenzio, silenzio, silenzio, il cuor che fa rumore fa odor di sangue che intingue, lacrima che cuor stringe, ove il mio nemico imbriciola e di Dio mio strugge, da qui cuor mio giorno e notte rugge e fugge, e fugge, fugge, fugge, fugge, giorno e notte rugge, fugge, fugge. Silenzio, silenzio, silenzio, il cuor che fa rumore fa odor di sangue, che intingue lacrima, che cuor stringe, ove il mio nemico imbriciola, il disimio strugge, da qui cuor mio giorno e notte rugge e fugge, e fugge, e fugge, cuor mio qui giorno e notte rugge.